Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, qualche istante un po' in ritardo, ma insomma c'è il ritardo accademico. Ma ci bisogna fare i suoni, insomma, dopo la telefonica ci vuole, insomma. Allora, diamo subito il benvenuto a questa band. Ciao ragazzi, benvenuti a Blu Radio Vento. Sono gli Ainan Sea. Ben ritrovati, abbiamo Paolo Spada alla chitarra. Sì, ciao. Giorgio Poletto alle tastiere. Ciao. E poi abbiamo Alessandro Ricoco alla batteria. Ciao. Se mi cortesemente mi parlate vicino ai microfoni, meglio, perché sennò poi altrimenti facciamo un po' fatica a sentirvi, insomma. Allora, Maurizio, hai sentito? Hanno fatto le prove già. Sì, ma già. Che bello. Cari ascoltatori, voi non sapete, ve lo dico tante volte, ma quando uno sta al centro dell'universo musicale, cioè al centro della band, è tutta un'altra cosa, come se suonasse anche lui. C'è poco da fare, è così. È bellissimo, è molto bello. E poi, cari ascoltatori, dovete sapere che il disco è della band qui in questione è molto significativo e l'impasto vocale è ancora più significativo. Dovete solo attendere qualche minuto e poi partiamo anche con il live. Ricordiamo allora i numeri telefonici, anche se volessero i nostri ascoltatori fare qualche domanda a questa band e anche salutarli, che ne so, chiedere qualcosa. Loro penso siano ben disponibili a rispondere, vero Paolo? Diciamo di sì. Allora, il nostro numero per gli sms è il 346 23 20 033. Ripeto, per mandare qualche messaggio, anche per salutarci, per farci sapere dove ci state ascoltando, perché no. E poi ancora quello invece in studio è lo 049 875 6423. Allora, Paolo, sei pronto a parlarmi un po' in dialetto padovano? Sì. Allora, fai andare avanti soltanto un po' di tempo, poi piano piano prendo l'accento. Ecco. Solo un po' adattare, sono pochi minuti. Ma come mai questa sindrome? Ah, non lo so, ma penso che abbia qualcosa a che fare con l'orecchio musicale. Ecco. Se mi avvicino a qualcuno che ha un accento, piano piano lo assumo. Ma Giorgio è più facilitato, visto che le sue origini sono patavine. Sì, proprio. L'abbiamo scoperto adesso. L'ha detto qualche minuto fa, prima di partire in diretta. Anch'io sono d'origine patavina, vero Giorgio? Sì, fiero di queste origini padovane. Ecco appunto. Ma è un vero esotto. Voi da dove venite, ragazzi? No, io sono di Milano, nato e cresciuto a Porta Ticinese. Invece Alessandro, che è un po' lontano dal microfono perché è seduto sulla batteria. Io sono di Palermo. E te, Giorgio? E io invece sono Varesotto. Varesotto. E poi ne manca uno. Sì, che è il bassista. Siamo il bassista Vincenzo, che noi sostituiamo stasera con un bassista virtuale, che è sempre Vincenzo, che è solo che ha registrato la sua traccia in anticipo. Esatto. È dovuto andare in Puglia per motivi, diciamo, i familiari, appena avuto il bambino, quindi insomma l'abbiamo giustificato un po' malvolentieri. Terzo album, ragazzi, della vostra discografia, si chiama The Passion. Passion non è l'album di Peter Grabe, che non c'entra assolutamente nulla, però si chiama Passion, la passione. Sì. Una passione musicale, sì, anche solamente possiamo dire una ricostruzione, un andare dentro musicalmente. Si dice che il terzo album è l'album della maturità, è anche per voi questo oppure no? Ma non lo so, francamente. La maturità anagrafica forse c'è stata prima. No, assolutamente. La maturità artistica è qualcosa. Una evoluzione, sì, però. Sempre. Sì, no. E indubbiamente, almeno la sensazione anche nostra è quella di avere un album più completo rispetto a prima. Ne siamo più soddisfatti, certamente. Dato anche io, ho letto le critiche assolutamente molto molto molto positive al 100% di tutte quante, siete stati veramente nel senso del termine, entusiasti nel senso positivo del termine, perché tutti vi hanno detto sì, è un grande disco, c'è poco da fare. Non c'è stata nessuna critica negativa che ho letto io, e critiche decisamente da tanti riviste, non solamente dalle solite riviste, dei soliti giri che ben conosciamo. No, stiamo mettendo a posto in diretta, non c'è poco da fare. Ecco. Di microfono. Ecco, adesso ci siete meglio, sì. Dimmi. Così va meglio. Sì, adesso va bene. Sì, sulla critica, sai, mi fanno molto piacere le recensioni. Obiettivamente, anche noi siamo abbastanza stupefatti. Ogni volta che leggiamo una recensione troviamo bei complimenti. Sì, no, ne ho letta una che proprio qualifica assolutamente il vostro disco, anche questo. Un lavoro completo caratterizzato da un perfetto, e per cui parlavo prima così, perché io ho sentito in anteprima, perfetto equilibrio tra musica e testi, tra musiche e testi, cioè tra il cantato e la musica, in perfetto equilibrio. Io ero qua davanti, in questo momento, minuto prima di partire dalla quella diretta, e avevo proprio quella sensazione, senza leggere quello che c'era scritto qua. Beh, se fosse vero, diciamo, partiamo da questa ipotesi che è tutta da dimostrare. È tutta da dimostrare. Credo ai complimenti. Ma se fosse vero, sarebbe piacevole per certi versi, sarebbe un po' meno comprensibile anche in realtà spiegarsi come mai allora, se fosse così, un disco così bello non è al primo posto della classifica. Questo è un altro par di maniche, è un altro par di maniche, anche se Rock Hit, diciamo, noi ce lo diciamo per stare coi piedi per terra, ecco. Certo, anche tutto se Rock Hit album del giorno, quando è appena uscito, si dice aprire album del giorno, è una cosa positiva, positivissima. Sì, sì. Certo. Rock Hit è un portale non da poco, molto importante. Sì, oltretutto un portale al quale noi guardiamo molto, almeno io personalmente guardo spessissimo, e anche l'artista che avete intervistato poco fa io l'ho conosciuto tramite Rock Hit, ecco, tanto per dire. L'idea della band, adesso facciamo un passo indietro, come è nata, come è sviluppata, come avete deciso di riunirvi e fare una band? Ma guarda, il percorso nostro è un po' più lungo rispetto a quello di altri. Io personalmente ho cominciato a suonare molto presto da giovane, però poi ho sospeso per un po' di tempo, mi sono dedicato ad altro. Quando sono tornato alla musica l'ho fatto inizialmente da coverista, insieme a un'altra persona che poi non è più nel nostro gruppo, ci sono state alterne vicende, ma in sostanza da un duo poi è diventato un trio, e col trio è iniziato a entrare la viola, quindi uno strumento acustico e ad arco insieme, però eravamo ancora facevamo cover, fatto diversi anni in un locale molto famoso, Le Scimmie. Le Scimmie, che a Milano conoscono un po' tutti. E presentavamo musica dagli anni 60 ad oggi, diciamo, rifatta però ovviamente con spoglia, no? C'era un po' questa idea dell'impressionismo musicale. Noi volevamo dare un abbozzo, no? Della canzone, voce, chitarra e un filo di viola. Poi abbiamo fatto tutto un lavoro ad aggiungere, a costruire, però quando tu costruisci sulla musica d'altri ti manca sempre qualcosa. Hai detto una cosa giusta, quando costruisci sulla musica d'altri ti manca qualcosa, la qualcosa è l'originalità tua, i tuoi pezzi praticamente. Esatto. E poi lentamente, progressivamente le cose sono andate in quel verso. Sì, io in realtà scrivevo canzoni anche a 16 anni, però ecco, riprendere a scrivere canzoni più avanti nell'età è stato un momento di svolta, perché vuol dire cominci a credere effettivamente che l'aspetto, diciamo, artistico della tua vita abbia un peso e una sua dignità da coltivare. Bene, io direi di rompere subito il ghiaccio. Cosa dici, Paolo, anche per far sentire la vostra musica, insomma? Sì, certo. Ma cosa abbiamo scelto? La traccia numero 4, perché, Paolo? Parli di The Crossing. Yes. Sì, esattamente. Ma io l'ho scelto perché semplicemente abbiamo fatto una cernita tra i pezzi che vogliamo proporvi dal vivo e quelli che invece magari facciamo ascoltare da disco. Questo è un pezzo più mosso, che rende probabilmente meglio sul disco che dal vivo. È un pezzo che però incontra i favori di molte persone, e quindi ci sembra anche giusto ricordarlo. E allora ascoltiamo questo The Crossing, Island Sea. Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora Paolo, ci hai messo anche il suono del passaggio a livello, insomma, in questa è la croce di Sant'Andrea. Sì, è la croce di Sant'Andrea. Sì, l'incrocio, l'incrocio. Come ti è venuto in mente di questa canzone, insomma? Ma è un'immagine, sostanzialmente il, diciamo, il protagonista, quello che canta è un passaggio di livello, no? Passa il treno, vede nel treno riflessa la sua immagine, così attraverso piccoli fotogrammi dei finestrini, e si trasla praticamente a bordo di quel treno che solca la pianura, e quindi è praticamente un transfert emotivo al passaggio di un treno, diciamo, l'immagine vorrebbe essere questa. Il drumming di Alessandro corrisponde a questa immagine, praticamente questa rincorsa continua del tuo drumming. Adesso ti avvicini. Come l'hai fatto? Volutamente il suono l'hai creato così, perché doveva essere questa immagine, doveva dare questa sensazione di corsa, di movimento, di treno, del passaggio. Assolutamente. Diciamo che c'è anche una dinamica all'interno del brano. E quando si parlava dell'immagine del treno, ho pensato subito a uno dei miei brani preferiti di Pat Metheny, Last Train Home, dove c'è un rullante abbastanza direi smooth per tutto il brano. Ecco, però come potevo dare un'immagine un po' più dinamica? Allora abbiamo diviso praticamente in tre pezzi il brano, quindi c'è una parte sul timpano che ricorda un po' anche Larry Mullen degli U2. Sì, qualcuno l'ha citato, giustamente. Esatto. Ecco, poi c'è la seconda parte, l'inizio del chorus, sul rullante con molte note fantasma, le chiamiamo i batteristi, le ghost notes, anche se suonate più pesantemente, e poi l'ultima parte dove si fa un uso del piatto, il ride, con il levare, che dà molto di più, diciamo, la sensazione del movimento, del treno. Ecco. Benissimo, hai spiegato benissimo com'era l'andazzo musicale, la costruzione, l'idea. Parliamo anche del tastierista qui davanti. Che cosa ci hai messo? Questo? Perché Paolo è andato su con la voce molto molto molto molto alto e tu l'hai corollata, l'hai accompagnata dalle tastiere usate in una certa maniera. Ma no, sì, lui ha un falsetto naturale. È un falsetto naturale, un falsetto naturale che sfrutta molto bene e a me piace andargli dietro. Sono naturalmente falso. Naturalmente falso. E a me piace andargli dietro con queste tastiere. Io sono un po' figlio delle tastiere degli anni 90 e questi synth un po' strascicati, sì, un po' elettronici, a me piacciono questi eco lunghi, insomma mi piace molto. E lui pazzia con la voce, io gli vado dietro con i miei suoni. Quindi la costruzione è stata fatta così, il pezzo è venuto fuori molto, molto bene, perché doveva rispecchiare un testo che parlava di questo. Benissimo, una cosa perfetta. Crossing, questo andare in una certa maniera. Bene, allora, adesso sono le 22:25 e come sempre abbiamo aperto la finestra dal punto di vista del disco, adesso apriamo la finestra dal punto del live. Il live sarà una cosa molto interessante e molto bella. Io ripeto che sono proprio al centro dell'universo, l'ho sentito come fosse un musicista, il bassista che è lontano adesso, lo sostituisco così idealmente io in questo momento. Che pezzo ci fate ascoltare? Facciamo adesso, non sapevo da quale microfono parlare. Spero che si senta. Sì, si sente un po' ovattato. Metti su quello là, piccolo. Ma su questo si sente meglio? Sì, esattamente. Sì, sì. Allora temo quando dovrò cantare. No, non ti preoccupare. No, va bene. Comunque, facciamo Hushing the Whispers. Vuol dire zittire i mormori, i bisbigli della voce. Ecco, forse ha qualcosa a che fare con i nostri microfoni questa sera. Benissimo. Siete pronti voi? Sì, ok. Due secondi, intanto facciamo per sentire uno stacchetto. Well, I'm sleeping on it. I swallow things that tasted bad. Ties lay close in blankets in this cold but trusted place. There is nothing evil in the humble state I'm in, but the ghosts around me and the voices in here. Why are those whispers in my mind? Oh, but why be like hammers till I die? Even there's no fault in man, there's no guiltiness or shame, there's no sin in the harmless, there's no crime for the starving. Whispers in my mind, my love and my friends and I. Posso dire un pezzo molto molto bello, accattivante. Questo poteva essere un singolo, assolutamente un singolo, perché veramente ben fatto, costruito bene. Qualcuno ha scritto è beatlesiano, si può anche darsi che sia beatlesiano, ma chi non è beatlesiano? No, tutti siamo infatti beatlesiani. Infatti, ma io ho la sensazione che il giudizio di derivativo sia un giudizio che non viene espresso sempre nello stesso modo. Intendo che spesso ci danno a noi, ma non solo a noi, certo, no? Se, anzi direi che più passano gli anni più la critica di essere derivativi, cioè di in sostanza dipendere stilisticamente da qualcuno che ci ha preceduti, sia una critica ricorrente per forza di cose, perché c'è comunque ma non è una critica questo qua, non è una vera e propria critica. Ecco, secondo me dovrà necessariamente arrivare il momento in cui smetteremo di fare questa critica, perché probabilmente saremo tutti per forza di cose derivativi. Certo. Quindi insomma posso dire che per me è un pezzo pop, ben fatto, ben costruito, ma è un pezzo pop. Io non parlo Beatles, al di là dei Beatles o no, è un pezzo pop costruito bene e soprattutto è accattivante, perché il ritornello entra subito in testa. E quando un ritornello entra subito in testa vuol dire che il pezzo è fatto bene. Oppure è troppo banale. No. No, non è troppo banale. La costruzione musicale non è mai banale, secondo me. Tu canti in una certa maniera, ti accompagni con la chitarra, le tastiere sono qui di fronte a me e danno un certo senso, e Alessandro ti trasporta, sia pure non in modo robusto, stasera in una fase assolutamente unplugged. Sì, sì. Decisamente unplugged. Sì. Volutamente unplugged. Ed è giusto che sia così, perché questo pezzo dava fatto unplugged, secondo me. Al di là della versione del disco, dava fatto unplugged a questa costruzione. È un ritornello che deve andare avanti così. Deve proseguire, deve dare questa linea di pop nel senso positivo del termine. Di alta qualità, non di bassa qualità. Bene, grazie. Io l'ho sentito così. Un pezzo accattivante, secondo il mio punto di vista. Cioè, uno che lo sente dal di fuori, penso che insomma gli entra subito nelle orecchie, insomma, credo. Al di là dei Keen, esatto, dei Radiohead, dei Star Sailor, tutte sono i Britpop, siamo d'accordo, tutto gira, ma siete voi e basta. I riferimenti certo ci possono essere, ma non è una forma negativa o di critica, sono solo dei riferimenti. Poi la musica l'avete scritta voi, gli arrangiamenti li avete fatti voi, la voce è tua, non è del chitarrista o del leader dei Keen, certo. Tanto per citare un nome che adesso è ritornato in classifica, anche se il disco non è straordinario come i primi album. Non poteva essere uguale al primo. Esattamente, la magia del primo disco è scomparsa, sì, definitivamente. Sono d'accordo. Ecco, questo voglio dire. A me è piaciuto particolarmente. Questa versione l'avete fatto in questo momento, qua, da me. Sì. Da noi. Che è diversa da quella del disco. Si presta abbastanza, perché è un pezzo abbastanza scarno anche sul disco, no? Non particolarmente... Sì, è scarno, pieno. Sì, però entra dentro, hai capito? Sì, sì. E quello è importante. Al di là di tutto. Bene, io se voi siete d'accordo, se visto che siete già caldi, possiamo fare ascoltare ancora qualcos'altro. Cosa ne pensi? Ma certamente, io ripeto, sono il bassista ad onore stasera della band, e quindi certamente. Questa non la sapevo, mi giunge nuova. Da quando in qua ti sei autoproclamato perché bassista? Perché mi è piaciuto immediatamente, mi sono immedesimato subito mentre provavo. C'è poco da fare, c'è l'atmosfera, è qualcosa che mi spinge. Vedi musica e strumenti. Ma dobbiamo ringraziare Alberto Prisco, il nostro, che salutiamo perché ci sta ascoltando, e vi saluta tutti. Sì. E lui ha voluto la band. Mi tiene molto informato sui i risultati, sugli lo sappiamo. Dopo parleremo alla fine del programma. Beh, intanto lo ringraziamo fin d'ora. Sì. Perché lui saluta, che ci ha contattati, in effetti non l'ho conosciuto di persona, ma intanto lo ringrazio. Magari chissà, se magari passa dopo, magari più tardi, fare un giretto. Alberto, ti aspettiamo, se vuoi passare, i ragazzi qui ti vogliono salutare e conoscere di persona. Allora, noi faremo sentire The Gift. Ok, benissimo. Questo regalino, diciamo. Certo. Questo è un omaggio. Sì, è breve, è un pezzo pop. Anche questo. Necessariamente. E ve lo facciamo sentire in versione, diciamo, live unplugged. Quando siete pronti? Fino a un certo punto. Sì, assolutamente. Siete pronti? Sì, sì. Ok. Best of me can keep on waiting. Lost to see, I've been sad already. Here's a devil's rope running you to save it. Time is through and wasted, maybe. Oh, the best of me can keep on waiting. Lost to see, I've been sad already. Here's a devil's say that. Wave Live. Sai, io ho una, cioè, ho un amore, è il falsetto. Il falsetto mi fa impazzire. E tu canti in falsetto, è una cosa meravigliosa. Non solo in falsetto. E non solo in falsetto. Adesso non facciamo girare voci false, tendenziose. Beh, falsetto, anche in falsetto, anche in falsetto. Poi, Giorgio ha detto una cosa molto bella a proposito di questo disco, dell'album nuovo. Lasciamo che sia la passione a scandire il ritmo. È così? Sì, sì, è così. In realtà The Passion è la passione da svariati punti sì, di vista. Anche musicale. Anche non è soltanto la passione, c'è anche la passione che è la sofferenza, ci sono tutte queste sfaccettature. Certo che la passione della musica è una costante nella vita di tutti noi, noi non facciamo questo per mestiere, ci tiene insieme questo amore per la musica, questa passione per le note. E questo regalino che ci avete fatto di 2 minuti e 30, 3 minuti come si usava una volta, ma quello veloce che bisogna masticare subito le cose, mica anche però le cose di 9 minuti e 18 dalla statua di Twive, anche quello si mastica bene. Sì, certo. Però era molto bello, molto velocissimo. Ecco, la sapevo. Ecco, è lì che gira nell'aria. In ogni caso, era veloce. Bene, è un bel pezzo pop. Questo è veramente un pezzo pop. Sì, grazie. Questo potrebbe essere considerato il singolo. È il singolo. Sì, sì. Trascinato dal vivo. Qui abbiamo fatto un pseudo unplugged. Col bassista come lo fate? Lo marcate bene oppure no? In realtà quello che facciamo non cambia molto. Quello che cambia probabilmente è l'intenzione con cui suoni. Quindi è chiaro che non quello che suoni da seduto è diverso. Quello suoni in piedi, è vero. Puoi anche alzare se vuoi. Sai che i nostri pensieri cambiano se tu sei sdraiato o se sei seduta, no? Lo sperimentiamo tutte le mattine, non so se ci fate caso anche voi, no? Se tu hai un pensiero al risveglio, sei sdraiato, tu metti giù i piedi dal letto, il tuo pensiero cambia. È così, è il motivo per cui gli psicologi ti fanno sdraiare quando devono far parlare. Giusto, hai ragione. No? Sì, devi essere più rilassato. C'è proprio un recettore ormonale che cambia, che ti fa cambiare idea. Noi siamo un po' vittime dei nostri ormoni e dei nostri neurotrasmettitori. E suonare seduto cosa vuol dire suonare per cui, in piedi? E quando tu sei seduto tutto si presta alla quiete, no? Un approccio più riflessivo, meno violento, meno... Quando sei in piedi su un piedi palco... Adesso. Ecco, però infatti Alessandro si è alzato. Sta scocciando di questo discorso. Mi permetto di dire che il batterista, che è sempre seduto, diciamo, sfugge a queste regole. Cosa vogliamo dire del tastierista che è sempre in piedi invece? Vabbè, allora, vedi che parlo inutilmente. Beh, Pete Townshend spaccava le chitarre, era sempre in piedi, in ogni caso. Ah sì. No, ma ecco, questo infatti mi viene in soccorso. Tu ce lo vedi Pete Townshend a fare un concerto seduto? Non è mai stato e non lo sarà forse mai. Forse una volta vicino a Eric Clapton in tarda età. Sì, ecco molto in tarda età. Esattamente. Va bene, volete riposarvi un pochino adesso? Facciamo ascoltare un pezzo dal disco? O... Perfetto. Sempre nostro, quindi. Beh, sì, sempre. Che bella trasmissione, mi piace un casino. Averne così. Hai scelto la traccia numero 8, Paolo. Sì, Soul Weather. Sì. Ci capita a fagiolo perché se stiamo parlando di fare le cose, diciamo, unplugged o con una vena più così tranquilla, ecco, Soul Weather è un pezzo che dal vivo fa mettere in piedi, fa scatenare tutti. Spacca, come diciamo noi giovani. Non so se sei tu giovane. Sì, beh, certo che giovane. Ma rispetto a me, sicuramente. Vabbè, rispetto tutti a te, Maurizio. Ti ringrazio. Questa tua sottolineatura fa insomma, fede. È risaputo, ragazzi, che lui sia il nonnetto, no? Quindi... Sì. Poi ci chiude la diretta. Sì. Non sono io che comando qui. Va bene. Allora, il mixer, dicevo, quindi lui... Beh, no, c'è il tastino, si potrebbe escludere. Ti posso escludere, se vuoi. In effetti. Va bene, ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio e magari ne parliamo di questa Soul Weather. Okay. Sono sempre gli Island Sea. Inland, scusa. I think it's true, but I should never feel safe from you sorrows. Prayer for tomorrow when I get up isn't my turn. My hands are steel, but I can get enough faith to be constant. My soul weather, I wish I had the weatherman sometimes showing my soul weather on and on. Is it my soul weather spinning in my head like sun sometimes? Is it my soul weather? Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, eccoci ancora qui in diretta, sono le 22.46 di questo 31 ottobre 2012 con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavalle, ma soprattutto con, adesso lo dico bene, gli Inland Sea. Ho detto bene, Paolo? Perfetto. No, ma ci tengo a dire che il tuo è un errore assolutamente comune. Anzi, per parecchio tempo ci hanno detto, va bene, è tutto perfetto, come la recensione, ma cambiate nome perché tutti lo storpiano in Island Sea. Infatti mi veniva spontaneo. Sì, è spontaneo, però io francamente che ho un po' la tendenza ad essere un bastian contrario. Sì. se posso dire qualcosa di diverso lo dico. Dico, va bene, ma Island Sea che cosa vorrebbe dire? L'isola, il mare dell'isola? Il mare dell'isola, sì. Vabbè, che significa? Non vuol dire niente. Banale, assolutamente. Dai. Invece Inland Sea c'ha un suo significato, se posso. Ma certamente. Sono qui per questo. Inland Sea starebbe per il mare interno, il mare dentro la terra, no? E che è poi sostanzialmente la traduzione letterale di mare mediterraneo. Quindi noi quello che vorremmo in sostanza significare è che noi facciamo una musica che è certamente di stampo britannico, assolutamente anglofilo, sì. Però siamo italiani e ci portiamo dietro, spero, mi auguro che si riesca anche qualcosa a sentire, no, la nostra radice mediterranea. A proposito di questo pezzo che abbiamo sentito, giustamente a microfono spento parlavamo della lunghezza, che non era esagerata, mentre dal vivo può essere esageratamente lunghissimo, alla Grateful Dead, quindi lungo finché vogliamo. Ed è bello finché c'è gente davanti. Sì, beh, ma gente, quando uno fa delle variazioni sul tema, ci sono due casi: o la gente se ne va o rimane là perché che ama particolarmente, e io sono chi ama, uno di quelli che amano particolarmente le variazioni dei temi, perché la jam session è una cosa meravigliosa fatta in una certa maniera, e è ancora più meravigliosa, anche se non si dice della meraviglia iniziale. E cioè, si va avanti, è un mantra, parlavamo un mantra con Herself, era un mantra anche questo, se vogliamo, va sì, avanti. Sì, è vero, questo nasce così, in effetti, nasce così, poi da un punto di vista discografico ha un suo certo, termine, è un suo termine. Per forza di cose, però era proprio quello. E le tastiere di Giorgio hanno a quella dimensione di allungare a dismisura il tappeto, vero Giorgio? Sì, ti confermo. Ecco. Io lo vedevo come Keith Emerson che pugnalava il suo organo, la sua tastiera quando faceva parte dei Nice, mitico gruppo degli anni 60. Che Giorgio ricorda sicuramente. Esatto. E ti direbbe sì. Perché noterai che lui ha invece la tendenza contraria. Tende a darti ragione. Sì. Ma lui è molto più giovane, non so, i Nice non se li ricorda. A Salonga Vita Brevis, con la fotografia del cranio... una cosa, certo. È un disco meraviglioso, al di là chi ama uno i Nice, dobbiamo ricordare che adesso è venuto fuori dai Nice, poi ha fatto i Emerson Lake and Palmer, ma era un'altra cosa, assolutamente. Bene, io penso di farvi un bel regalo, ragazzi, nel senso che è stata qui il nostro ospite ancora un paio di mesi fa, più o meno, all'inizio insomma del mese di settembre, un mese fa più o meno, è venuta una ragazza, una signora, insomma una cantante, una donna che vi sta ascoltando da Perth in Australia e vi saluta caramente, no. mi sta dicendo che è ottobre mi fa sottolineare, mi sta dicendo che siete molto bravi, gli fa piacere ascoltare la vostra musica, insomma. Grazie. Dall'Australia vi sta ascoltando in diretta in questo luogo dei Church, ragazzi. Sì, di Crowded House. Di Crowded House. Soprattutto dei Church o di altri gruppi, dei Triffid, assolutamente dei Triffid, quindi il suono cupo australiano. Si chiama Lori Greco, la salutiamo caramente. Salutiamo. Un abbraccione, Lori, ben sintonizzata come sempre, ti aspettiamo l'anno prossimo. Col prossimo disco, ovviamente. Insomma. Beh, certo che è uno smacco terribile per gli Inland Sea dell'Australia, perché dovete sapere che pochi mesi dopo la pubblicazione del nostro primo, anzi secondo disco, il primo diciamo pubblicato su iTunes, che era Things Change, quindi parliamo del 2010, più o meno 3 mesi dopo venne fuori un EP di un gruppo sempre su iTunes targato Inland Sea, anche loro australiani. Ah, erano australiani questi qua. Esattamente dalla parte opposta del pianeta, liberissimi ovviamente di chiamarsi come noi, anzi ci siamo anche scritti delle mail scherzose, poi loro sono andati avanti per la loro strada, noi per la certo, nostra, certo che però avere dei fans dall'Australia, dall'Australia. Voglio vedere quanti italiani ascoltano gli Lansi australiani. E comunque vi fa sapere che anche i canguri vi portano i saluti, mi ha detto. O solo i canguri. Okay. Ciao Lauri, sei simpaticissimo, un abbraccione da tutti noi da Blu Radio Veneto e soprattutto dal sottoscritto Agostino, e buon proseguimento all'ascolto i programmi con appunto gli Inland Sea. Allora, cosa dici Agostino? Suoniamo ancora e dopo abbiamo il solito appuntamento del 23. Io li ho già preannunciato, di solito non lo facciamo mai, ma abbiamo preannunciato ai ragazzi che cos'è l'appuntamento del 23. Già, hai già detto, sì. Sì, ho già detto a grandi linee, però dopo le linee saranno un po' ristrette. Va bene, cosa ci fate sentire adesso? Cosa suoniamo, ragazzi? Adesso faremo Here's Your Son, che è un pezzo, potremmo dire, minore nel disco. Ogni disco no, ha i suoi perché pezzi, è un pezzo minore, diciamo. È un pezzo del disco, dai, non minore. Va bene. Un pezzo del disco. Ok. Quando sei pronto me lo dici. Nasce come una dedica alla nascita di un figlio di un caro amico, che salutiamo. E parla proprio del rapporto con il figlio che nasce. Come from the outer space through the atmosphere. Now he's on your knees. This alien smells good since he's come in peace. Hands up, he feels secure. Falls asleep in a faithful dream. While the world outside is at work, red falling leaves. But nations do fall. This baby you're holding, what a cool thing. He's a son. So long you've been waiting, and you made him. He's a son. Stirred him now. I guess you can never make rest for. For newborn growth, a nature's gears of a million years, and how we'll grow up strong with love and milk. He's not concerned with claims among years of these decrees. He struggles, his hands control. Hatches up his feet. The stillman's stillin'. So make his life easier. Let him breathe it. He's a son. Don't think what you wait for. Just be grateful. He's a son. Let him know it's not worse or better than anyone. Oh, no. It's not alone. Rock Wave. Rock Wave Live. Dunque, io secondo me ha due chiavi di lettura questo pezzo. Una chiave di lettura iniziale, qualche secondo, di blues. Poi no, poi le cose sono cambiate, assolutamente. Si è aperto, il blues si è allontanato, però all'inizio aveva una voce che cantava blues. È così, Paolo? Sono d'accordo. Forse non solo la voce, anche l'insieme delle cose, sì, era questo... proprio blues. Sì, poi il blues si è allontanato, come è Tom Waits che varia pop. In altre cose, è tornato. Ma guarda che poi questo temo che sia un po' diciamo una vena obbligata dei ritornelli, no? Quello di aprire, esatto, di aprire la melodia che rientra, la melodia e il pop, no? Sostanzialmente, per cui. E poi alla fine è quella che vince, secondo quella me. Che vince, io, però almeno io lo sento così. Ci sono quelli che sono più dominati e catturati dal riff, dal ritmo. Per me invece comunque la melodia. Però tentavi di allungarla, però hai deciso no, basta, fino a un certo punto. Poi l'allungamento era troppo e poi Giorgio ha evidenziato con le tastiere, ha spianato proprio l'inizio, ha proprio spianato nel vero senso del termine. E poi si è arrivato il pop. Non è una fase negativa, è una fase positiva, però l'idea è partita da quello. L'idea originale era tutto un pezzo blues oppure no? Allora, l'idea originale era proprio una cosa, sì, direi più soffice sulla chitarra, basata su questo. Sì. Te lo faccio sentire. Sì, vai, vai. Non so se lo sentite. Sì, sentiamo. Ecco, su questa. E poi doveva essere un cantato, se vuoi, alla Sylvian. Devo parlare. Bello cantato alla Sylvia. Come from the outer space. Cioè, più anche magari scene. Sì, però è schizofrenico questa cosa. Adesso sto virando ormai su un accento veneto così rivendicativo. Hai detto una cosa, il cantato alla Sylvia. Molti si sono dimenticate di chi è Daddy Sylvia a fare delle cose meravigliose con i Japan ed altri, soprattutto anche negli album solisti, il famoso Brilliant Trees, te lo ricordi? Sì, era meraviglioso, quella copertina giallognola, bellissimo. Tu poco fa mi hai detto i dischi che porteresti via. E allora siamo arrivati alle 23. Ci siamo alle 23. Allora guarda, te lo dico subito. Lo spari subito. Per me uno, ero molto incerto se Brilliant Trees o Gentlemen Take Polaroids per me dei Japan. Però Brilliant Trees forse. Ma lui era il primo, cioè l'album solista che l'ha fatto conoscere, era già conosciuto, però che ha dato una certa spinta alla sua direzione da solista. Sì, bellissimo, lo trovo bellissimo un disco. Bellissimo disco, ormai i primi tre di Sylvian li ho adorati. Adorati tutti e tre. Poi l'ho perso un po', l'ho visto dal vivo, poi l'ho riperso, ogni tanto vado a cercare dov'è. Ma ha fatto tante cose anche con tanti altri, ha avuto qualche avvicinamento con Brian Eno, non sempre positivo, un po' strano. Sono due geniaci che... E qualcuno ha detto, ma Brian Eno sta rovinando i Coldplay, che il disco, l'ultimo, penultimo che ha fatto con loro, e l'ultimo ha venduto un sacco, ma non era un disco... alla Coldplay, è un disco alla Brian Eno. Cavoli, hai detto niente. Hai detto niente. E mi fai venire in mente, aspetta, un altro disco che Brian Eno ha rovinato, tra virgolette. Per qualcuno, che era The Unforgettable Fire. Ah, non mica l'ha rovinato. Sì, l'ha rovinato. No, sì. Non l'ha rovinato. E Joshua Tree l'ha rovinato. No, secondo me. Cioè, loro venivano da Steve Lillywhite, che era un altro... È un'altra cosa. Ecco, io avevo adorato Steve Lillywhite e quel tipo di suono. Di suono suo, più garage. Più Simple Mind. Ecco, più... però Brian Eno, devi ammettere che aveva una poesia intrinseca. Cioè, il pezzo di Unforgettable Fire, cioè, loro non avrebbero mai fatto senza... Lo so, lui è un genio. Già era un genio con i Roxy Music. Poi era troppo genio e l'hanno... lasciato perdere perché era troppo genio, non poteva andare su sentieri non popolari. Era già genio con Bowie. Era già genio con Bowie, ha fatto tre dischi meravigliosi, la famosa trilogia berlinese. Ah, dimmi, andiamo avanti. Sono già senza parole davanti a questi mostri. Beh, un altro sarebbe stato probabilmente Bowie. Io ho lasciato parte della mia adolescenza su Diamond Dogs, anche se so che non è considerato... Dobbiamo sottolineare una cosa, tu lo sai meglio di me, Bowie è un tipo che varia sempre, sì, ha sempre variato, sì, anche sulle spese, sì, ai suoi, sì, danni, ma ha sempre variato. Con coraggio, beh, assoluto genio, ecco, indubbiamente. Il segno del genio sta lì, indubbiamente. Nella capacità di svolazzare e cambiare, rimettersi in gioco tutte le volte. Ecco, ecco. A proposito di Bowie, lo sai che nel disco, nel film nuovissimo che è uscito, uscirà o è uscito adesso nelle sale, c'è Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Sì, l'ho sentito. Hai sentito la versione italiana di Space Oddity? Però io la conoscevo. Certo, è un pezzo che lui ha scritto in italiano. L'ha scritto Mogol. L'ha scritto Mogol in italiano per lui. Una cosa incredibile. Ecco, quello che fa pensare è che certe volte che noi bistrattiamo gli italiani, io per primo che non ho mai ascoltato musica italiana, però no, lo ammetto. Poi quando senti questi pezzi da 90 che canta in italiano, capisci un po' che in fondo anche l'italiano si porta con sé un po' di Sanremo. Certo, sempre, ma è un fascino incredibile quel pezzo cantato da lui. Avevano cantato i Computer, sì, sì, che è un gruppo romano. Poi che pezzo, eh? È che è un pezzo incredibile, bellissimo. Space Oddity in versione Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Sì, ragazzi, dovete scovarlo perché è un piccolo gioiellino degli anni 60. Assoluto. E poi? E poi vai. Poi non lo so, io avrei diviso per decade, e quindi partendo dagli anni 60, venendo in su, no, poi gli anni 60 avrei citato King Crimson. Wow. Che cosa di King Crimson? Dimmi che è quello. In the Court of Crimson King. Solo la faccia in copertina, da tutto. Quello. No, anche perché ci sarebbe stata una bagarra assoluta su quale disco, no? Doors, non so, me ne vengono in mente troppi. Sgt. Pepper, cioè siamo sempre lì. Però quel disco lì... In the Court of Crimson Cream. Ma che musicisti avevano all'epoca? Il percorso di King Crimson, poi con quella gap in mezzo e quel ritorno nei primi anni 80, che non so se ti ricordi, con Discipline e Beat, due dischi che mi hanno steso al suolo letteralmente, perché quella era il Dream Team per me. Esattamente. Quello era il Dream Team. E questa è la versione giusta, vero? Questa? È la versione giusta questa. Eccola. È la versione giusta, giustissima. Ecco, bellissima. In ogni caso, abbiamo citato King Crimson, il Friptonic non l'hai citato però. Il Frippertronic. Robaglia, come si di dice? Di persona, lui praticamente sul palco, seduto su uno sgabellino, ad un certo punto agitava i piedi e si sentiva crunk, crack, tronk, tronk. Ma ha rovinato tutto e o ha... cominciava... Ma o ha bellito o ha rovinato secondo te? No, ma scherzi, bellissimo. No, io trovo che fosse... Come si chiama esattamente lo strumento che ha inventato lui? Frippertronic. Frippertronic, esatto. Frippertronic. Se tu lo ascolti, grazie anche per questa questa favola che non morirà mai. Che bello. Io posso ringraziare in diretta i miei fratelli perché mi hanno introdotto a questa bellezza assoluta. Sai che c'era un detto, dicevano che a quel tempo lì molti compravano questo disco proprio per la copertina, prima di ascoltare il disco. Insomma, c'era un gusto sulla copertina che abbiamo totalmente perso. Tu prima parlavi, io sono stato zitto, parlavi dell'odore del disco, del vinile, ma io vado oltre, cioè abbiamo perso totalmente il gusto della copertina. Noi ci siamo anche spesi un pochino a cercare una copertina che ci piacesse, ma non pesa più niente. Allora, vi ricordate gli Yes? Avevamo Roger Dean, grazie. Avevamo Roger Dean che facevamo le copertine. Il gusto di farlo. E i Moody Blues, ti ricordi le copertine di Moody Blues? No. Tu sei giovane, non te le ricordi. Erano dei quadri, dei quadri veri e propri. Bellissimi, meravigliosi. Come Roger Dean, anche loro avevano un pittore, era un membro aggiuntivo della band e facevano i quadri. I meravigliosi quadri di Moody Blues. È un altro mondo. Adesso i CD sono piccoli, piccoli. Insomma, cioè probabilmente incidevano nell'immaginario del ragazzo in modo non recuperabile oggi come oggi. Ok, li hai detti tutti? Sì. No. Sì, forse sì. Poi tornando ai giorni nostri, Ok Computer, che dire. Questi Radiohead fanno... Tom York è un genio. Sì. È un geniaccio. Sì, forse uno degli ultimi. Beh, forse è l'ultimo di una generazione. Sì. Alessandro, tocca a te adesso. Prima di Alessandro, scusami Maurizio, scusami Alessandro, ma vi porto i saluti dal Friuli, un'altra coppia che è stata qui, ha suonato, ha cantato qui, lei è Serena Finatti assieme ad Andrea Vanier, che fanno parte di questo duo straordinario che sono venuti qui e vi salutano, mi stanno ascoltando, vi fanno i complimenti. Grazie, ciao. Ciao Serena, un bacione, un abbraccione e buon proseguimento anche a te all'ascolto dei programmi di questa emittente. Questa colonna sonora, Alessandro, vai, puoi citare i tuoi dischi sull'isola deserta. Parla vicino. Sì. Ok, vai. Direi che inizierei da Sting. Sting quale, e Alessandro? Sting da, penso su tutti, uno su tutti è Ten Summer's Tales. Ah, ho capito. È album del 93 o 94, se non ricordo bene. Lì c'è uno dei miei batteristi preferiti, direi, ecco. E ci sono delle liriche, penso ai brani che ha fatto Dominic Miller, Shape of My Heart. Insuperabili. Bene. E per venire ai giorni più vicini, U2 con Actum Baby. Hai scelto un disco, ecco, difficile, di rottura, di assolutamente di rottura. Rottura. Ecco, ma lì ci sono un paio di brani, One su tutti, che per me è una poesia. E cosa ha detto Johnny Cash? Cioè, Bono su Johnny Cash, che ha ripreso One, che ha fatto meglio lui che non. Ecco. Johnny Cash che Bono, l'ha detto Bono. Johnny Cash l'ha fatto meglio di me. Grazie. Eccolo qua, grazie. La versione del... Mamma mia, fatto da lui, però fatto da Johnny Cash è un'altra cosa. C'è anche il duetto con Beyoncé che non è male. Ah sì, sì, questo è vero. Però la versione originale... Però sto prendendo una piega pericolosa. Sì, perché adesso arrivano i miei. Sta per arrivare John. Io sono quello pop. Vai, poi un altro poi Alessandro. Poi citerei anche Pat Metheny con Secret Story. Un disco famoso, molto famoso. Dove sì, ce sono un paio, credo la numero 8. Adesso non ricordo il titolo. La traccia numero 8. Sì, c'è un pezzo di armonica, un solo con quattro note che vale il disco. Vale tutto il disco, secondo me. Ecco. E poi andando un po' indietro nel passato, un po' diciamo all'epoca di Paolo, che di Paolo è più vecchio di me, anche se solo di un anno circa. Vabbè, sorvoliamo. A Love Supreme di John Coltrane. Ecco. Insomma, tu hai sentito, cioè, un musicista da niente, proprio, sì, uno qualsiasi. Sì, sì. Ecco, considera che io prima di acquistare il CD ho letto il libro che parla la biografia. Del CD, la biografia. E devo dire che quello è un disco che ti mette un po' in pace con il mondo. E secondo me va ascoltato da solo. Non è un disco semplice, no, assolutamente. No. È un disco di John Coltrane, come tutti i dischi di John Coltrane. Va ascoltato tutto d'un fiato. È chiaro, è chiaro. Sono diviso in quattro parti. Certo, certo, certo. Giorgio, tocca a te adesso. Io premetto che sono un incolto totale. Quindi qui sembra di passare dalle stelle alle stalle. No, assolutamente. Uno me l'ha già rubato Paolo, però. Perché OK Computer lo porterei anch'io. Certo. E non si può copiare. Porterei Grace di Jeff Buckley. Ah, un altro disco epocale. Ne ha fatto uno solo, ma è diventato epocale. Al di là che padre di un, cioè che figlio di un tale padre, però è un'altra cosa. Jeff Buckley e Tim Buckley sono un'altra cosa, un altro, anche se il DNA è lo stesso, però sono un'altra cosa, un altro mondo. Però i critici hanno sempre detto, si è capito che tu preferivi Tim, dai. Io sì, preferivo Tim, ma Jeff, però mi Grace sempre... è un capolavoro. Ma Grace è un capolavoro. Purtroppo è rimasto solo quello, e quello è il male del discorso, perché l'Almine, quando si è buttato sul Mississippi, ha deciso che non doveva più venire su. È andato così, purtroppo. Ma forse perché non si poteva migliorare. Può darsi. Talmente che... bello che è vero, non si hai poteva ragione fare te. Niente di meglio, e allora si è dato agli dèi. E l'altro è Absolution dei Muse. Ah, visto che adesso sono in classifica in Italia con il nuovo disco, come mai hai scelto i Muse? Che amano particolarmente l'Italia, soprattutto la Toscana. Vengono spesso e volentieri. Ma i Muse sono dei bravi musicisti, secondo me. Sono abbastanza affini come sonorità, hanno una ricerca delle armonie che non trovo spesso. Gli ultimi album hanno preso una piega un po' troppo commerciale, secondo me. Nella mia personale classifica, Absolution è certamente il migliore dei loro album. Mi piacciono molto, fanno dei live fantastici. Sì, da Dio, sono una macchina. Hai visto? La fortuna di vederli dal vivo, sono veramente delle macchine da palcoscenico e hanno dei suoni fantastici. La ricerca sonora anche trovo che sia veramente, veramente molto, molto complessa. Se posso dire, lui poi ha una voce splendida, una grande voce. Veramente bravo. Anche se, bravo, come giustamente diceva Giorgio, l'hanno accusato di essersi commercializzato, soprattutto in questo ultimo album che ha venduto tantissimo in Italia. Italia, un po' meno gli altri posti. L'ultimo album strizza l'occhio anche al dubstep. Sì, certo, certo. Insomma, non sono più originali come una volta e non è detto che questo sia un difetto. No, assolutamente no, c'è un'evoluzione. Poi, Giorgio? Un altro, dai. Che ne so, quelli che veramente mi porterei sono quelli, e poi mi porterei The Passion. Giusto, ecco, ecco. Mi pare giusto che sia così. Ok. Io direi a questo punto, visto che abbiamo passato tutti quanti questi ragazzi, insomma, i componenti di questo gruppo, che, a parte che manca sempre Vincenzo da me, lo ricordiamo e lo salutiamo nuovamente, direi, se siete d'accordo, di tornare un po' indietro con la vostra produzione, al disco precedente, dove c'è la canzone che ha avuto un successo enorme, giusto Paolo? Sì, parli di Come to Me Now, esatto. Che è stato il pezzo di apertura del disco, è stato il pezzo che ha convinto a suo tempo l'etichetta a portarci in sala di registrazione, ed è stato poi il pezzo che ha convinto anche delle radio nazionali a spingerlo. Certo, esatto, certo. Esatto. E quindi l'ascoltiamo. Tra l'altro era la canzone che apriva l'intero lavoro. Sì, infatti. Noi puntiamo sempre il primo pezzo di essere quello che ti cattura, altrimenti butti via il disco. L'ascoltiamo. Raise my glass, declare my name, a pledge and vow, I won't betray, I'll be so proud and willing to see such things come true. Sure, I am drunk, but Wave Live. possiamo dire che è un pezzo, questo che abbiamo sentito, che va lanciato nelle radio, giustamente va lanciato nelle radio, perché si allontana, io ho questo parere, leggermente dal vostro DNA votamente britannico, per adombrare, per toccare delle corde di un tradizionalisti molto americano, tra virgolette. Non dico californiano, però può anche darsi. Perché no? La California è un grande paese, è una grande musica, ha grandi cose. Può darsi che sia questo. E questo è per quello ha tirato determinate cose positive, secondo me. Ha tirato sulle antenne. Io lo sento così. Mi fa piacere. Guarda, poi tutte le volte che c'è un pretesto per uscire dall'etichetta Britpop, per noi sì, è una cosa piacevole. Poi uscite, almeno in questo pezzo, uscite decisamente. Diceva Alessandro prima che dal vivo è piuttosto tosto, cioè sì, date sì, un impulso notevolissimo, al di là della viola meravigliosa del nostro amico che non c'è stasera, sì. La viola ha un certo senso decadente, sì, è sempre certo. Decadente la viola, il decadentismo non è assolutamente britannico, può essere non britannico, ci sono dei gruppi americani che hanno usato la viola, gruppi vicini ai Jefferson Airplane che hanno usato la viola, perché no? Certo, certo, sono d'accordo. È una cosa... Io la sento così. E questo era un pezzo molto bello. Ed è interessante che sia la vostra immagine. Poi chiaramente l'immagine odierna è il nostro, è l'album. Sì, no, cool. Infatti è anche però, un po' superato. Certo, è superato. Ma è superato se voi dal vivo lo fate, lo variate, lo rimodernate, ne date un contenuto diverso. Ma ok. Sì, sì, certo. E comunque è ancora in radio, ancora adesso. Certo, certo. Addirittura un nostro amico ha trovato un pianista di piano bar che faceva il pezzo. Ah, vedi, in vedi. Romagna. Bello. Questo e poi te per dire certe volte la radio dove arriva. E mi ha detto Giorgio una cosa positivissima. In quello studio in cui è stato registrato il pezzo c'era un organo originale, vero? Sì, Hammond, un sì, Hammond originale di quel tempo. Degli anni 60. È stata un'emozione suonarlo. Cosa sentivi quando toccavi i tasti di questo organo, di questa tastiera? Suoni stupendi. Suoni stupendi. Sentivo suoni stupendi. E poi sentivi le ventole, perché c'è cioè tutto esatto. Pieno di roba che gira, che si muove. È qualcosa di vivo. È vero, è qualcosa di vivo. Hai detto una cosa giusta. Tempo fa, Agostino non era ancora, non faceva parte ancora del gruppo. No, faceva parte ancora del gruppo. Meno 4-5 anni fa, è venuta una band qua. E ha portato un organo, pesava 160 kg, era un Farfisa originale dell'epoca. E quando ha cominciato a suonare, aveva un suono, ti attirava, c'è poco da fare, ti coinvolgeva. Lui lo suonava bene, era bravo, però aveva questo fascino spaventoso dell'organo del periodo. E adesso posso capire cosa avete provato voi a sentire, a toccare con mano questo strumento meraviglioso. È quella la bellezza della musica. Indegnamente. Parla per te. Io infatti non l'ho toccato. Ecco. Paolo, io volevo chiederti o a te o a Giorgio, o Alessandro, insomma, come nascono le vostre canzoni? Allora rispondo io perché le scrivo io, per cui è semplice risponderti da questo punto di vista. Nascono quindi in modo non corale, quello corale è l'arrangiamento, la scrittura, non voglio parlare di composizione perché è un po' fuori luogo, ma la scrittura di una canzone nasce nel mio caso dalla musica. Quindi prima la musica e poi il testo. Prima la musica e direi in modo estremamente naturale, spontaneo, cerco di influenzare intellettualmente meno possibile, perché quando lo faccio il risultato non mi soddisfa quasi mai, mentre mi piace farmi esaltare da quello che viene fuori spontaneamente, quindi mi pongo in modo passivo, come fossi un ascoltatore e viene fuori qualcosa, ma penso che questo sia abbastanza comune per chi scrive. Il testo invece è un'attività, ahimè, necessaria, della quale talvolta farei perfino a meno, perché forse non è così indispensabile, nel senso che la musica dovrebbe riuscire già a comunicare tutto quello che vuoi dire. Ecco anche perché la scelta di una lingua che non è la nostra, e forse l'interlocutore o l'ascoltatore non importa che capisca tutte le parole, che poi in realtà hanno un senso ben compiuto, intendiamoci, anzi direi che ci perdono mesi per fare i testi, c'è una specie di sudoku in cui tutto deve quadrare perfettamente. Però ecco, diciamo, sono due momenti distinti. E poi quando tu hai scritto il testo e la musica, c'è una riunione tra voi, avete decidete gli arrangiamenti, il modo di interpretarlo, di svilupparlo, praticamente sarà così. Sì. Ognuno dice la sua, sì, presumo. Ognuno dice la sua, di solito io porto il pezzo in saletta, quando certo. ci troviamo il pezzo nuovo, faccio ascoltare, di solito entusiasta, c'è un periodo, la fase euforica subito. Tu parti già, mi piace. Altrimenti non arriva in saletta. Ah, direttamente, lo escludi prima. E poi c'è in sostanza una fase di approvazione più o meno democratica. Tiepida, sì. Questo diciamo è sempre stato il proprio procedimento, adesso si è un po' svecchiato, tendenzialmente usiamo gli strumenti informatici, certo. ci scambiamo mail pesantissime di file musicali e niente, poi la gran parte del lavoro si fa in quel modo lì. Ho capito. Bene, bene, bene, bene, bene. Ma i testi invece nascono così improvvisamente? Vedi qualcosa? Ti viene in mente una storia? No, ecco, sì, magari lo spunto improvviso. Poi, come ti dicevo, la realizzazione diventa un'opera certosina di incastro, perché è importante per me in un certo punto dire una certa sillaba proprio per una questione musicale, allora il testo deve arrivare in quel modo lì. Poi l'immagine è diversa. La canzone che stiamo per suonare, tanto per darvi un'idea, è una canzone un po' piacciona. Però cosa intendi per piacione? Nel senso che può essere considerato un pezzo semplice, pop, no? Piuttosto così romantica, e anche se vogliamo di composizione piuttosto elementare, e lo è. Tuttavia, proprio per il testo, nel mio caso, è una canzone che porto sempre con grande coinvolgimento. Vuoi che la ascoltiamo subito, visto che ne stai parlando? Se volete, sì. Sì. Si chiama Tu. Quando sei pronto me lo dici? Sono pronto. Ok. Have a kisses, may I have a good night, baby? May I have a kiss or two? All I ever needed, a tender little kiss now, baby. A little dream I'd sleep into. I need something to melt my mind. Rest from troubles and pain, yeah. Let me linger and sleep, linger and breathe. While you're by my side, I feel you near. Let's go to the end and never be back. I'm glad to get all on a night by this. Stars bend to fade, I know you'll be there. When we had a problem, never had the fear to face it. Never lost, but we were two. Gonna be the heartaches, gonna be the good times, baby. Along the sun, you see the fruits. Just need a few things to find a way. Keep far from trouble. I'm May I have a good night, baby? May I have a kiss or two? Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Two, praticamente. Un pezzo molto bello. A me è piaciuto il riff, adesso me lo rifai. Ah, vai un'altra volta, vai, vai. Mi è piaciuto poi quando vai su con la voce, vai su incredibilmente, poi lo ti seguo, adesso mi rifai il pezzo in cui vai su con la voce, vai, vai. Avevo già cantato tre volte, ma hai voluto fare... Certo, certo, certo, perché mi è piaciuto moltissimo. E c'è un motivo, che forse è la caratteristica vostra. Vai, all'inizio non apri, e poi alla fine apri. Aprite sempre alla fine. E dà un certo senso alle cose. Cattura la persona, l'ascoltatore. Tutti i pezzi sono stati costruiti in questa maniera. Si apre alla fine ed è bello. È lui che li crea così, li vuole creare così. Sì, sì, sì. Concordo, e è una cosa che mi hanno già osservato. Qualcuno dice bene, qualcuno... Beh, però io sì, dico sì, bene. È una cifra un po' così. È una cifra positiva, assolutamente positiva. Questa è una canzone d'amore, fondamentalmente, sì, una canzone d'amore. Un amore maturo. Un amore che ti trascina, no, ti travolge, ma un amore consapevole e anche molto dolce. Sì, esattamente. E il testo e la musica dà questo senso alle cose, e questa apertura finale, ripeto, dà un certo senso e cattura immediatamente. È un quid che è positivo durante tutto il disco, più o meno messo in una certa maniera, ma c'è sempre. E quindi è, non so le caratteristiche dei prossimi dischi, io penso che ci sarà sicuramente un prossimo disco, delle canzoni che hai già nel cassetto che sono ferme. No, neanche una. Non ne hai neanche una. Già, mi spiace tarpare le ali alla Universal che stava per chiamarmi in questo momento. Ah, sì. alla Warner. No, in realtà volutamente è giusto così. Non mi metto a scrivere, non vuol dire che tutti i pezzi, quelli che avete inciso, sono quei pezzi che veramente avete sentito. Sì, siamo in giro, stiamo facendo concerti. Che concerti state facendo? Dove possiamo, dove ci chiamano. Venerdì abbiamo suonato in un bellissimo Arci di vicino a Milano. Vicino a Milano. Usano Milanino, l'Arci Agora, dei ragazzi simpatici che salutiamo. Qua e là, poi torniamo anche alle scimmie. Tornate alle scimmie, non fate più unplugged per stavolta. Però facciamo soltanto il nostro repertorio. Esattamente. E poi, siccome è proprio la nostra zona, diciamo, viene sempre tanta gente a sentirci. In quel caso, è un pubblico, diciamo, amico, che conosce i pezzi, che li canta anche, può darsi, che li qualche ritornello forse. Ecco, perché in verità ti devo confessare che invece suonare davanti a un pubblico che non conosce i pezzi è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Quando noi vediamo i live delle grandi star, dobbiamo sempre partire dal presupposto che sono veramente molto facilitati per certi versi quei live, perché cantare con davanti qualcuno che conosce i tuoi pezzi, che ti segue, è un'emozione che non ha nessun paragone. Non Quindi c'è... è molto più difficile cantare a gente mentre, che non ti conosce. Esattamente. Se posso fare un paragone un po' ardito, è qualcosa di molto vicino a una passione sensuale. Ed è la seconda ipotesi, è come avere un trasporto sensuale nei confronti di un partner che però non è altrettanto trasportato. Ho capito. Bene, bene, benissimo. Già che parlavi di persone, di gente che ascolta, Paolo, com'è il vostro rapporto con i vostri fans? Ma adesso tu usi la parola fans e io potrei anche far finta di avere dei fans. Però quantomeno quando c'hai qualche concerto, quando fate qualche live, insomma. No, diciamo, è vero che ci sono tante persone che, per dire, schiacciano il mi piace su Facebook, per intenderci. Però se quelli vanno considerati fans, non lo so. Mm-hmm. Mi sembra che siamo un pochino sul vago, ecco. Il fan è uno che ti segue, che si aggiorna prima che tu lo vada a pescare. Ecco, di quelli ce ne sono pochi, obiettivamente. Poi c'è invece una platea che si fa pescare, che si lascia convincere, che si lascia invitare, che viene a sentirci. Però, a dire la verità, noi quello che stiamo cercando di fare è di aprire questo bacino di utenti potenziali. Noi siamo qua a 300 km da casa anche per questa ragione, cioè ci vorremmo trovare qualcun altro oltre ai nostri amici, quelli che ci seguono da sempre. E il rapporto poi potrebbe essere un rapporto anche affettuosissimo, e purché ci sia ovviamente delle persone da incontrare. E la radio ha avuto sempre questa funzione, certo, di aprire, meno, sicuramente la radio nostra, sicuramente i nostri live hanno questa funzione di aprire, di allargare gli orizzonti, certo, che la gente deve... Dimmi Alessandro. Se posso dire una cosa, l'obiettivo finale è fare un concerto a Perth, in Australia, esatto, così, perché no? La nostra, non si nostra sa mai. Amica, ecco, magari lo condividiamo il palco con gli altri Lanzi. Con il Trifit, per esempio, se no, i Church, poi, che ancora e poi esistono. Poi magari quando ritorna in Italia vi la suonate insieme. Ecco, qua, esatto, quando ritorna in Italia mi avete convinto. Quando lei fa spesso la tournée, insomma, qui in Italia, va spesso in Sardegna, mi risulta. Insomma. Sì, esattamente, esattamente. Bene, volete ancora riposarvi un pochino? Facciamo ascoltare ancora un pezzo dal disco, cioè quello che chiude l'intero lavoro. Siete d'accordo? Sì, certo. Giorgio, Alessandro, Paolo? Sì, è il mio preferito. Ah, ecco, quindi non possiamo non farlo ascoltare, insomma. Si chiama Blind. Blind. Blind. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ancora una ventina di minuti con gli Island Sea qui a Blu Radio Veneto, con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con questi tre ragazzi: Paolo Spada alle chitarre, Giorgio Poletto alle tastiere, Alessandro Aurico o Aurico. Aurico, Aurico e Inland Sea. Inland Sea. Alla batteria, e manca, come dicevamo poc'anzi, alle Vincenzo De Meo, che è il bassista, ma che risulta magari con la tecnologia risulta più presente. Allora, abbiamo sentito questo pezzo che è molto significativo, questo Blinding. Non è un pezzo cieco, voi non siete ciechi assolutamente, secondo me. Musicalmente siete molto aperti. Sì, Paolo diceva giustamente a microfono spento, ci sono i Radiohead. Sì, ci sono anche i Radiohead, ma è un punto di vista, un input. Poi la bellezza del pezzo finale, Alessandro diceva, la voce si allontana, è vero, nel finale la voce si allontana, ma è un pezzo classico alla fine, un pezzo del Novecento, possiamo dire, alla Satie, dai, possiamo dire, Novecento, inizio del Novecento, alla Satie francese, perché no? Magari. Giorgio, tu che suoni le tastiere, perché no? Può essere un pezzo alla Satie. Perché no? Novecento puro. Ecco, devo dire che il bello di questo brano, dal mio punto di vista, è che esprime al meglio il concetto di tensione musicale. Ecco. E quando a Paolo ho chiesto, ma perché? Qual è l'ultimo accordo? Re minore, ho detto, perfetto, siamo a posto. Ok, questa qui. Sì. E poi ha sempre la solita funzione. Si apre alla fine. E qua è un pezzo che si rincorre. E qui... ripetiamo il discorso, ma non lo ripetiamo, citiamo un'altra volta il mantra. Stavolta è un mantra classico, perché via vai continuamente, è la voce che si allontana, la musica che proprio al centro è la voce che si allontana. L'idea della voce che si allontana è stata tua, è stata di Alessandro, è stata di Giorgio o è stata di qualche altro? No, devo dire in questo caso è stata mia, a dire la verità è il fondo che sale, no? Esatto, cioè il fondo che sale è un doppio movimento. La voce effettivamente si allontana dal vivo, per esempio sul palco io fisicamente mi allontano. Bello, bellissimo, bellissimo. Urlando sempre di più, ma si sente sempre di meno perché mi allontano, però cresce la musica di fondo. E quello che tu dicevi prima, che questi pezzi tendono sempre poi ad aprire ad un certo punto, ecco, questo pezzo, che è un pezzo tutto sommato un po' scuro, sì, molto scuro, ecco, apre in questo modo, cioè apre col volume, con la pienezza, si assommano strumenti uno sull'altro. C'è una solo di batteria di Alessandro, allora non c'è, no, io immagino una solo di batteria di Alessandro, ecco, ma noi non siamo molto inclini agli assoli, come non avrei siete notato, cioè, siete abbastanza, sì, no, non dico contenuti nella linea, sì, che avete, sì, deciso, ma io lo immagino così, visto che gli strumenti, il suono si allarga, lo immaginavo una chitarra ben compiuta, quasi lisergica, una batteria alla Kate Moon che spaccava e una tastiera alla Kate Emerson che spaccava doppiamente. Lo immagino così. No, però invece noi siamo molto più contenuti. Ecco, perfetto, ho immaginato sbagliato. Però sì, ognuno si immagina, sì, qualcosa. Sì, sì, sì. No, ma capisco perfettamente, e secondo me, se vogliamo proprio dirla tutta, quello che senti tu probabilmente lo sente la maggior parte delle persone che ascolta quel pezzo. Vorrebbe una vera esplosione è rock. È vero. Che non c'è. La tensione di cui parlava Alessandro, secondo me è questa, è una tensione, è un'attesa continua nei confronti di qualcosa che però fondamentalmente non arriva. Bene, una tensione che non si risolve. Ecco, molto bene. Molto bene. Mancano 15 minuti, Maurizio. Ah, sì, vero? Cosa sì. Facciamo? Facciamo due facciamo pezzi? Sentire un pezzo dal vivo assolutamente adesso, perché poi vedo torniamo Alessandro in studio. È pronto. Ma poi... ecco, io Alessandro in realtà lo metto molto a riposo su questo prossimo pezzo. Ah, ecco. Quindi... Sì, va bene. Ne abbiamo due da fare ancora. Certo, sì. Allora, io il prossimo pezzo vorrei fare invece il contrario rispetto a quello che abbiamo appena sentito. C'è un pezzo che è molto più vuoto. Cerchiamo di ritornare, diciamo, a una linea melodica essenziale, quindi voce e chitarra con poco di più. Alessandro avrà il suo da fare, ma in modo diverso rispetto a prima. Sentirete qualche cosa che ha a che fare con la pioggia, lui userà una uno strumento che ha in mano, adesso gli ascoltatori non lo possono vedere, ma è una specie di bastone di legno molto grosso, voluminoso, che si chiama appunto il bastone della pioggia. La canzone si chiama The Rain Words, quindi le parole della pioggia, quindi questo è il suo compito in questa canzone, è manovrare in modo molto complesso, tra l'altro, questo strumento percussivo. Che visto da qui sembra un palo quasi della luce, no? Un palo lungo, ma in realtà invece è un suono particolare. Sì, molto particolare. Benissimo. Forse era quello che ho alzato prima. Va bene, in diretta così che si fa. The Rain Words. Out in the sunrise, gold shines on you. Words of beauty fail me. Then when the night falls, like whispering, the sound of magic's in me. Words like arms around me, tongues of angels in me. I keep this road that's leading by the rhymes to your door. Voice of word, a little rain must fall, a little rain of words must fall. Shy with you, most of answers fail me. Then when the night calls like whispering, a crowd of lovers find me. Verses run around. Burning flames within me. I keep this road that's leading by the rhymes to your door, leaving by the voice of word. A little rain must fall, a little rain of words. As the raindrops are poison to touch the skin and go deep. Small blind whisperings are annihilating me. I keep this rope fast. Leaving back the voice of word, a little rain must fall, a little rain of words of love. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa canzone mi è piaciuta moltissimo, l'ho trovata molto, come dire, sofferente da parte tua, Paolo. La senti moltissimo questa canzone? Sì, sì, sì, la sento molto, poi è impegnativa anche perché... Vocalmente, dici? Vocalmente, quindi sono contento che ti piaccia. Sì, decisamente. Poi è bello la fase minimale, questa è una canzone con una fase minimale, meravigliosa. Lo strumento della pioggia suonato da Alessandro... molto bello, molto significativo, e le tastiere di Giorgio danno la colorazione alla tua voce, i tuoi acuti, ti allontani moltissimo dalla fase musicale, però poi loro ti ritornano chiaramente, però ti allontani, tu praticamente canti da solo, tra virgolette, la fase musicale è proprio appena accennata, perché deve essere così, io ti immagino con una luce davanti, una luce potente, tu canti come un loner, un musicista, non dico che gira, però un musicista solo che canta le sue sensazioni al pubblico, e lo strumento della pioggia e le tastiere ti accompagnano, ma lievemente, dolcemente, senza strafare, senza togliere il tuo spazio. Questa è secondo l'idea di questo pezzo, secondo me. Sono d'accordo, almeno questo in questo tipo di arrangiamento. Intendiamoci, è un pezzo che potrebbe essere arrangiato in modo diverso, molto più folcheggiante. Sì, folcheggiante. O molto più ritmato. Sì. L'abbiamo fatto anche qualche versione in passato. Però così la sua ispirazione originaria era questa. Insomma. Esattamente, come diceva giustamente Agostino, la tua sofferenza, qui c'è la passione, ma c'è anche la sofferenza nel cantare un pezzo simile. Dà qualcosa alla gente che ti ascolta, a me personalmente, che ti ha ascoltato stasera in diretta a 23:52, quindi assolutamente in diretta. Bene, siamo arrivati quasi alla chiusura, però prima ancora qualche dato da parte vostra, non so chi vuole dire, insomma, cioè i vostri prossimi concerti, se qualcuno volesse acquistare i vostri dischi, il vostro sito, insomma, i contatti. Sì, si fa molto presto a dirlo, nel senso che sul nostro sito c'è tutto quello che hai detto, è un po' il centro della comunicazione per quello che ci riguarda, che è www.inlandsi.it. Inland, sì, Inland, sì. Forse sì. Alla fine della trasmissione riesco a dirlo giusto. No, comunque ribadisco, no, è necessario dirlo più volte perché è il nostro problema, se certo, vogliamo, certo. Comunicazione e soprattutto il nome. Senti, ti interrompo subito, Paolo, mi viene spontaneo chiederti, già che stiamo parlando di del vostro nome, come è nato questo nome? Ma allora... lui dirà che lo faccio apposta, ma è un pezzo di Brian Eno. È un pezzo di Brian Eno e da lì è nato. Io mi ricordo perfettamente il momento in cui probabilmente avevo 17-18 anni. Citiamo anche il disco di Brian Eno. Dai. Music for Films. Bravo. Quale numero? Ce ne sono fatti più di uno. Music for Films. Penso l'uno, però ecco non, l'uno. So, vabbè, non so. Quello non là. Sono più okay. Sicuro di questo. Era veramente tanto tempo fa. Sì, ti sento. Ah, mi senti, sì. È perché sento... Vai, ok, vai. E niente, è nato allora, mi era piaciuto allora e quello è stato il mio progetto di gruppo allora. Poi, come vi ho già detto, avevo smesso per tempo. Sì, c'è sotto una voce. Si sente una voce? Ma io mi sento benissimo, non c'è nessun problema, io sto benissimo. Mi sentite? Sì, ma forse è soltanto la nostra il problema. Perché sì. Io sono a posto qui, cioè non so se avete voi qualche problema, ma io sono a postissimo. Non c'ho niente di niente, insomma, che aspetta che verifichiamo. Ci siamo? Adesso non c'è. Okay. Adesso riprendiamo. Sì. Adesso c'era un momento, una volata. Un'interferenza. Adesso ritorniamo al discorso di Brian Eno, di Music for Film. Sì, e quindi è stato allora che mi era piaciuto. Quello è rimasto il titolo del gruppo e poi è arrivato il gruppo. Esatto, poi è arrivato il gruppo. Prima abbiamo citato i Japan di David Silve. E c'è sempre questi musicisti un po' fuori dei soliti canali, perché Brian Eno, anche se è un musicista famosissimo, è sempre stato fuori dei soliti canali. David Stevie lo stesso è stato fuori dai soliti canali, vero, volutamente fuori. E forse l'ispirazione della vostra band, del modo di fare, non è che voi dovete andare fuori dai soliti canali, però può darsi. Siamo anche abbastanza fuori. Siete abbastanza fuori, ma qualche volta essere fuori dai soliti canali è una cosa positiva, secondo me. Sì, può darsi. Noi paghiamo certe volte, forse, anche qualche scotto. Ecco, sì, certo. Qualche lato negativo. Ci sono gruppi più inseriti, sì, diciamo, nella scena indipendente, che riescono a organizzare di più tour, mini tournée, serate. Noi siamo sempre stati un pochino ai margini di questa scena indipendente, che pure guardiamo e con ammirazione. Certo. Non lo facciamo per snobismo. No, io penso forse proprio anche per una questione anagrafica, perché ci siamo nati in un modo diverso, anche per gusti differenti. Chiaro. Io benissimo, tengo in sottofondo abbiamo quasi questo. Finito, cosa dice Agostino? Sì, no, volevo riprendere appunto il discorso interrotto con come si chiama? Con Paolo. Riprendere il discorso interrotto. Sì. Parlavamo dei vostri dati, dei vostri chi volesse trovarvi, insomma, anche i contatti, il disco, sì, dove, certo, si può acquistare. Giusto. Il disco, questo The Passion, che è stato prodotto da noi, è stato poi, diciamo, adottato da una etichetta che si chiama My Place Records, che ci ha aiutato a distribuirlo in tutto il mondo in digitale. Bene. Su tutti i digital stores del pianeta, inclusa l'Australia. Soprattutto Perth. Lo dico per i nostri numerosi fans. E si può, ma l'hanno già acquistato d'altronde loro. Adesso ci rivolgiamo a tutti gli altri, soprattutto quelli del Veneto, che sono più difficili da raggiungere rispetto a quelli australiani. Quindi si può acquistare banalmente su iTunes, a un prezzo anche ragionevole. Viene distribuito, questa è la cosa più interessante, se vogliamo, invece in copie a distribuzione, diciamo, omaggio, quindi a offerta libera in occasione dei nostri concerti, il fisico, diciamo, per, certo, per chi è ancora amante di quello. Amante. Non abbiamo fatto il vinile, non credo che lo faremo. Non si sa mai, magari nella seconda o terza ristampa. Ah, può darsi, perché no? E cos'altro? Quindi comunque vi rimando tutti al sito inlansi.it, dove trovate le news, i concerti, tutta la musica da ascoltare, tutta integralmente da ascoltare in streaming, qualcosa anche, qualche chicca da scaricare, lo teniamo costantemente aggiornato, ci teniamo molto, quindi da lì poi ogni cosa. Certo. Il prossimo concerto? Non abbiamo ancora una data, forse sì, 20. Ah no, chiedo scusa, il 9 di novembre, quindi venerdì prossimo, non questo l'altro venerdì. Associazione Culturale San Fruttuoso, a Monza, vicino a Milano. Bene. Benissimo. Io vi tengo intanto sottofondo Easter, che abbiamo tenuto per riserva, insomma, nel caso ci fosse stato tempo lo facevamo ascoltare. Per adesso ci salutiamo con una canzone dal vivo. Sì, chiaro. Facciamo l'ultimo pezzo, che si chiama Week. E niente, basta. Allora vi salutiamo subito o ci risentiamo dopo? No, ci salutiamo subito. E dopo la musica finale conclude il programma. Un pezzo che tu usi il falsetto molto bene, è una tua caratteristica, abbiamo già detto, sì, una caratteristica, però il falsetto, ripeto, dà un certo senso alle cose e a me personalmente dà molto senso musicalmente parlando. Quindi ti complimenti per il tuo falsetto, anche se non vuoi chiamarlo falsetto, la tua voce è un po' così ispirata in una certa maniera, posso dire così, in questa, certo, maniera. Perfetto. Un grazie quindi ad Alessandro Auricò alla batteria, grazie di essere venuto qui. Grazie a voi, ciao a tutti. Un grazie a Giorgio Poletto per le tastiere. Grazie a voi. E a Paolo Spada per la chitarra, che ci saluta anche caramente Vincenzo De Meo. Certo, dalla Puglia. Dalla Puglia. Anche noi. E quando avrai voglia di scrivere ancora, sappi che le porte di Blu Radio Veneto sono sempre aperte per voi. Ben volentieri. Alla prossima. Quando avete voglia di tornarci a trovare. Maurizio, noi ci siamo appuntamento a lunedì. Domani riposo. Domani è festa, riposo. Niente live domani sera. Niente live. Però ci siamo lunedì con un cantautore veneto. Sì, esattamente. Con Fabio Poli. E poi ci saremo, ci sarò martedì, ci sarò mercoledì e ci sarò giovedì con te. Di nuovo giovedì. Va bene, ciao ragazzi, grazie ancora di essere venuti. Ci ascoltiamo Week. dalla voce di Paolo Spada e la sua band Inland Sea. L'ho detto bene stavolta. Perfetto. Buonanotte a tutti e grazie. I'm a